Letture di Radio 24. Il mercato dei libri antichi in Italia potrebbe aggirarsi intorno ai 20 milioni di euro. Al tempo dei modernissimi ebook, le polverose edizioni di vecchi classici sono l'oggetto del desiderio di molti appassionati. Ben inteso, non si tratta di una vera sfida. Sarebbe come mettere una squadra di golfisti vestiti Fred Perry davanti agli All Blacks, professionisti del rugby, della linguaccia e dello strabuzzamento oculare, e vedere chi per primo riesce a gettare la palla ovale fuori dallo stadio usando la mazza da golf, partita degna di Louis Bonuel. Tuttavia, confrontare il mercato dei libri antichi con quello degli ebook non è un'operazione peregrina. Entrambi sono di nicchia, uno da sempre, l'altro forse solo per il momento. In entrambi circolano numeri inverificabili sulle vendite e molti addetti ai lavori o le sparano grosse o si nascondono dietro un'artificiosa discrezione. Ed entrambi, infine, sottendono lo stesso meccanismo psicologico nell'acquirente. Prima di tutto c'è il piacere immediato di possedere un titolo, cui aggiungere, nel caso degli ebook, un fascinoso e-reader. Mentre la lettura può anche non arrivare mai. È facile ritrovarsi 1000 romanzi nell'iPad e averne letti sì e no 10. Eppure tra i proprietari di libri antichi c'è chi non ha mai aperto la propria cinquecentina. Detto questo, molto probabilmente il polveroso mercato dei libri antichi oggi genera un volume di affari superiore a quello degli ebook. Ma quanto è grande? Quanto rende il mercato antiquario dei libri? Non ci sono statistiche ufficiali. I numeri vanno estratti sul campo. L'Associazione Librai Antiquari d'Italia conta 120 librerie iscritte. Tra queste ci hanno confermato parecchi appartenenti alla categoria, soltanto una decina arriva a 1 milione di euro l'anno come giro d'affari, le rimanenti si assestano sui 100.000 euro. In più esistono all'incirca 300 librerie antiquarie tra negozi stabili e bancarelle, ma il loro fatturato rimane sui 30.000 euro. Il libro antico, ci dice Matteo Noia, responsabile fondi antichi e moderni della biblioteca di Via Senato, rimane un'operazione di collezionismo, se si vuole anche feticistica, ma non antitetica rispetto a quello che sta succedendo in tutto il mercato librario attuale. Molti collezionisti, come me, sono appassionati di gadget come l'e-reader. Piuttosto, è andato diminuendo il collezionismo intelligente a favore di uno solo finanziario. Ancora 20 anni fa, la composizione della propria raccolta era metodica. Si collezionavano solo novelle italiane del 500 e del 600, stampate su pergamena, per esempio, oppure libri di un genere letterario o di un periodo storico specifico, mentre oggi si punta sul pezzo di valore, rivendibile con vantaggio tra un decennio. È scomparso quel mercato che contemplava libri del Novecento in vendita a prezzi abbordabili. Internet, paradossalmente, ha portato imbarazzi ai librai antiquari. Ha facilitato la verifica di alcuni prezzi, ma ha creato una distanza tra l'oggetto e il compratore. Quest'ultimo è un individuo che si è sempre piccato di valutare il libro coi propri occhi e le proprie mani e che ritiene, sovente a ragione, di poter decidere lui stesso se una copia è buona oppure no. Avete ascoltato la lettura dell'articolo La vecchia pergamena batte per ora il giovanissimo ebook di Tommy Cappellini, pubblicato dal Giornale di giovedì 20 gennaio. Letture di Radio 24. Salvatore Cuffaro, ex governatore della Sicilia, è stato condannato a 7 anni di carcere per favoreggiamento a Cosa Nostra. Fabrizio Roncone, sulle pagine del Corriere della Sera, descrive gli istanti vissuti da Totò prima dell'ingresso a Rebibbia. Totò, amore mio, portati il pigiama di flanella. Ma lo sai, la flanella pizzica. Lì farà freddo, Totò. Sì, certo, amore, hai ragione. Lì dentro farà freddo. Giacomo Chiarelli non è più la consorte di un senatore della Repubblica, ma la moglie di un condannato che sta preparando il borsone con cui entrerà nel penitenziario di Rebibbia. Sono in camera da letto. Totò, però potresti aspettare ancora un giorno. Un giorno? E che senso avrebbe un giorno in più di libertà? Ti prego, Totò, un giorno ancora. No, vado. Mi consegno subito. Aspettare, te l'ho spiegato, amore mio infinito, allungherebbe solo l'agonia. La pioggia riga i vetri. Una luce grigia entra rimbalzando sulla cupola del Pantheon. Totò Cuffaro ha gli occhi lucidi. Tira su con il naso. Infila dentro due libri. La fattoria degli animali di George Orwell è un romanzo di Georges Simenon, uscito da pochi mesi, Il ranch della giumenta perduta. Poi un maglione di cashmere, il necessaire con lo spazzolino, il dentifricio, la schiuma da barba, un pettine, una coppola di panno, gli occhiali di ricambio. Questo pure me lo porto però. È una copia del Vangelo di Matteo. E questa, naturalmente, è un'immagine della Madonna di Santa Rosalia di Palermo. Perché io lo so che la Madonna comunque non mi lascerà mai solo. 4 ore prima, le 9 del mattino. Un uomo chino, a mani giunte, nel riverbero dei lumini, nella cappellina in fondo a destra, dove finisce la grande navata della Basilica di Santa Maria sopra Minerva, prega con un filo di voce. L'ex governatore della Sicilia è venuto a pregare perché così l'attesa della sentenza mi sarà più lieve. Indossa un cappotto nero sui suoi 100 chili tondi, che pure lo hanno aiutato nella sua carriera rapida, giocata su una formidabile flessibilità politica, con una simpatia a volte contagiosa, irrefrenabile, sempre mescolato alla folla, attraendola, baciandola, inevitabilmente il soprannome di Totò Vasa Vasa, Totò Bacia Bacia, e poi organizzandola, guidandola con questo suo faccione bonario, tondo. Se dimagrissi di 5 chili, perderei voti. Un faccione che adesso tiene chino sotto una non casuale tela della volta. La coronazione di spine del veneziano Carlo Saraceni. Ad un certo punto si alza, va ad accendere una candela, nella fessura delle offerte una banconota da 50 euro. Tossisce, si soffia il naso, guarda l'orologio. Non si accorge dei due uomini del Ross, dei due giovanotti in borghese che, con discrezione, lo tengono d'occhio da dietro una colonna. Poi torna a inginocchiarsi. Però questo è un rosario lungo e tragico, che si conclude quando un suo segretario lo avverte che forse è arrivato il momento di tornare a casa. Dalla Cassazione fanno sapere che probabilmente la sentenza sta per essere emessa. Il cellulare di Totò Cuffaro è squillato alle 12.50. Gli avvocati, dalla Cassazione. Poche parole. Cuffaro ha solo ripetuto 7 anni, condannato. Ha pianto, ha singhiozzato. Gli si sono appannati gli occhiali. È stata una scena brutta, dura, dalla quale Cuffaro è uscito ed esce, però, con una sorprendente prova di coraggio e di dignità. Dice Saverio Romano, dignità, ecco sì, questa è la parola giusta. La scriva. Cuffaro, di suo, aggiunge, è un'esperienza tremenda, che in me, però, rafforza sia la fiducia nella giustizia, sia la fede. Affronterò la pena come è giusto che sia. Questo è un insegnamento che lascio ai miei figli. È una prova certamente non facile, ma io sono stato un uomo delle istituzioni. E poiché anche la magistratura è un'istituzione, io la rispetto. Chiede un bicchiere d'acqua, gli avvicinano il telefonino. È la figlia, Ida, di 22 anni, da Palermo. Tu a papà una cosa sola devi promettere. Devi studiare. Devi continuare a studiare come sai e come fai. E ora ti bacia, papà. Ti bacia forte. Lo aiutano ad infilarsi il cappotto. Si volta. Vi voglio bene. Voglio bene a tutti. Così saluta Salvatore Cuffaro, detto Totò, di anni 53. Avete ascoltato la lettura dell'articolo Vangelo, pigiama e due libri, La Madonna mi aiuterà, di Fabrizio Roncone, pubblicato da Il Corriere della Sera di domenica 23 gennaio. Che senso ha ripubblicare libri togliendo le parolacce? È quanto si chiede il critico letterario Alberto Asorrosa dopo la nuova edizione dell'Huckleberry Finn ripulita dal termine negro perché ritenuto troppo offensivo al giorno d'oggi. Se ci venisse in mente la sciagurata idea di riformare secondo il politically correct i nostri classici, ipotesi non del tutto da escludere, visto che a qualcuno è venuto in mente in passato di riscriverli in linguaggio moderno per renderli più accessibili, metà o forse più della tradizione letteraria occidentale dovrebbe ripassare al vaglio di un'inedita crusca, più violenta e invasiva della prima, dalla commedia al Decameron, l'opera comunque più liberale e illuminata di tutte, da Tasso a Shakespeare. La creazione letteraria riproduce la realtà e prende anche posizione, ma sempre attraverso una procedura di finzione. Difficile accettare tranquillamente che uno scrittore, europeo o americano, definisca Obama uno sporco negro. Un suo personaggio, però, potrebbe. Sarebbe di certo inaccettabile che chiunque, magari approfittando della propria qualifica artistico-letteraria, offenda senza motivo o satirizzi gratuitamente una divinità religiosa, proprio o altrui. Ma se questo servisse a sottolineare l'incommensurabile relatività o infondatezza di tutte le credenze umane, anche di quelle più prestigiose e avvalorate, perché no? Il fatto è che il politically correct, il quale è un movimento, per così dire, di buone intenzioni, arriva in un momento, e per certi versi secondo me involontariamente lo riflette, di assoluto predominio delle fedi religiose, nessuna esclusa, comprese quelle di estrazioni apparentemente del tutto laica e terrena, in un momento, cioè, di fondamentalismi esasperati, al confronto dei quali quello espresso dalla Gerusalemme liberata sembra uno scherzetto. In una situazione di serio, autentico ed egemonico illuminismo, il politically correct non avrebbe alcun senso, perché ognuno direbbe ciò che vuole, spontaneamente, con il maggior garbo possibile. E se garbo non ci fosse, quel signore che ne fosse sprovvisto si punirebbe da sé, esponendosi al giudizio, altrettanto garbato ma serio e implacabile, di un pubblico colto in grado di giudicare. È questo ciò che bisogna auspicare. Un pubblico in grado di giudicare da sé, non il politically correct. E per i casi estremi, leggi normali dello Stato contro l'oscenità e la diffamazione bastano e avanzano. Avete ascoltato la lettura dell'articolo Quell'insana voglia di ritoccare Dante di Alberto Asorrosa, pubblicato da La Repubblica di lunedì 24 gennaio.